Andiamo nella notte, ma siamo un poco stanchi di tutte queste lotte che sono fogli bianchi. Un'ombra va e si perde nel mare blu, ma piangi tu e non dice che cosa c'è, non siamo qua e non voglio che sopra più la finestra che sbatti già e le fine per me, non dire no, non possiamo tentare ancora, se la porta si chiusa già e ti devo lasciare. Si perde nel mare blu, ma piangi tu e non dice di cosa c'è, non siamo qua e non voglio più sopra più, la finestra ti sbatte già e le fine per me, non dire no, non possiamo tentare ancora, se la porta si chiusa già e ti devo lasciare. Non siamo qua, è il mondo che sopra più, la finestra che sbatte già, e le fine per me, non dire no, non possiamo tentare ancora, se la porta si chiusa già, e ti devo lasciare, e ti devo lasciare, e ti devo lasciare, e ti devo lasciare, e ti devo lasciare. Y te debo.